طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا ما قانون دولي قانون العدالة. L'ultimo ricordo che ho della Palestina è si stava andando all'aeroporto e alla mia destra c'erano tutte le case dei coloni che avevano invaso quella parte della Cisgiordania libera, e c'era la strada che scendeva giù, vanno in cima alla collina e di lì poi scendono tranquillamente. Ma è un bambino che giocava a pallone solo, e intorno c'aveva i soldati con il mitra, perché c'hanno sempre il mitra. Io non me lo scordo più, per me la Palestina è quella lì. E un bambino così, però, io penso ai miei nipoti, come fa a crescere? Alla fine poi si esplode l'odio, che è quello che noi non vogliamo, nessuno di noi, voglio dire, è il motivo per cui noi abbiamo stretti contatti con i comitati non violenti, non mi ricordo mai il titolo esatto. È il motivo per cui è venuto questo giovane di 30 anni, sembrava un ragazzino, si è messo a giocare a calcetto, ecco, per dire, che ha detto che vedendo me e lui, e mio marito Giampaolo e la sua moglie, si sembrava di vedere i nonni, ecco, per dire. Buongiorno Palestina, 144esima trasmissione su Radio Wombat. Abbiamo iniziato questa nostra trasmissione, che va in onda il giorno di Natale, facendovi riascoltare la voce della nostra carissima compagna Paola Torricini, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Donna sensibile, attivista, pacifista, dopo il viaggio in Palestina fu promotrice della creazione di Assopace Firenze, animando e organizzando tante attività. Noi abbiamo voluto ricordarla così. Direttamente collegata al rapporto di Amnesty International e B'Tselem sul genocidio a Gaza, di cui sentirete nella rassegna stampa, l'intervento di Francesca Albanese all'ONU a New York, che ha lamentato la mancanza di azione da parte del Palazzo di Vetro nei territori palestinesi occupati e in particolare a Gaza, e ha raccomandato all'Assemblea Generale la sospensione di Israele dall'organizzazione. La campagna nazionale 100.000 no per fermare la guerra è stata presentata da Domenico Gallo a Firenze il 17 dicembre alle ore 21 presso il Circolo Isolotto di Firenze. Insieme a lui è intervenuto Dimitri Palagi, consigliere comunale di Firenze per il partito Sinistra Progetto Comune, che aveva già presentato la mozione, con Elena Basile e Raniero Lavalle, autori di due libri che stanno segnando il passo della riflessione intellettuale e politica. Prima degli interventi, il magistrato Domenico Gallo e Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune ci hanno concesso una breve intervista. Il 18 dicembre, a distanza di oltre un mese dalla lettera di cittadini, cittadine e cittadini alla sindaca Sara Funaro, Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, in un comunicato stampa, ci informa della non risposta ad oggi della sindaca. Ne diamo lettura. Per finire, vi informiamo delle prossime iniziative flash mob e manifestazioni per contrastare la vendita di prodotti israeliani nei supermercati quali Coop, Esselunga, McDonald's, Burger King, Carrefour, Pizza Hut, Starbucks, e contro la vendita dei prodotti Coca-Cola, Hewlett Packard, Siemens, Farmaci Teva, eccetera, eccetera. Per l'elenco completo potete scaricare l'app No Thanks dal Q-Code che trovate sulla pagina del nostro blog. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina. Cominciamo questa rassegna stampa con la notizia rilanciata da tutti i media che supportano la causa palestinese, ma che è stata praticamente ignorata dai media mainstream e riguarda il rapporto di Amnesty International pubblicato il 5 dicembre scorso. In questo straordinario e dettagliatissimo rapporto si afferma che ci sono prove sufficienti che Israele stia commettendo un genocidio contro i palestinesi, come dichiarato Daniel Scalamar, segretario generale di Amnesty International. Nel rapporto si legge che Israele ha trattato i palestinesi di Gaza come un gruppo subumano, indegno dei diritti umani e della dignità, dimostrando il suo intento di distruggerli fisicamente. Il documento sottolinea che Israele ha ripetutamente ignorato e disatteso gli innumerevoli richiami internazionali e le decisioni della Corte di Giustizia internazionale che ordinavano a Israele di fare di tutto per prevenire azioni genocidarie. Il rapporto ha aggiunto che il diritto internazionale stabilisce che non è necessario che un perpetratore riesca a distruggere la totalità di un gruppo perché sia stato commesso un genocidio. Nel rapporto si afferma altresì che nell'ultimo anno sono state raccolte numerose dichiarazioni di funzionari governativi che rivelano il chiaro intento di commettere un genocidio. In un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, sulla presentazione di questo importantissimo rapporto alla Camera dei Deputati da parte di Stefania Ascari e Arnaldo Lomuti del Movimento 5 Stelle insieme a Tina Marinari e Grazia Careccia di Amnesty International, si ribadisce come Tel Aviv, dopo il 7 ottobre, abbia scatenato un inferno e distruzione contro la popolazione civile in modo continuativo nella totale impunità. È stato sottolineato come non ci fossero reali obiettivi militari dietro gli attacchi israeliani e sono state prese in esame le dichiarazioni genocide e disumanizzanti del governo, così come le immagini satellitari che documentano la distruzione di Gaza. Durante la presentazione si è ricordato anche la necessità di supportare il lavoro della Corte Internazionale di Giustizia e come siano stati pochi i paesi che hanno espresso supporto al rapporto, e cioè il Sudafrica, l'Irlanda, la Norvegia e la Spagna, non l'Italia. A sostegno del rapporto di Amnesty interviene un altro importante rapporto stilato da Human Rights Watch, pubblicato pochi giorni fa. Come viene riportato nell'articolo della Associated Press dal titolo Human Rights Watch afferma che la restrizione israeliana all'approvvigionamento idrico a Gaza equivale ad atti di genocidio, Israele è accusato di aver causato la morte di migliaia di palestinesi, limitando e prendendo di mira sistematicamente l'approvvigionamento idrico a Gaza in una campagna che equivale a genocidio. Nel rapporto si afferma che molti neonati, bambini e adulti sono morti per malnutrizione, disidratazione e malattie causate dalle azioni delle autorità israeliane, volte ad interrompere deliberatamente il flusso di acqua ed elettricità a Gaza, distruggendo le infrastrutture e impedendo la distribuzione del cibo. Human Rights Watch conclude affermando che i funzionari israeliani stanno quindi commettendo il crimine contro l'umanità dello sterminio. Potete trovare come sempre il link agli articoli menzionati e al rapporto di Amnesty International sul nostro blog. قاومت وكنت الشوكة في حلق التنين أرهبت الدبابات العزل بالسكين قاومت وكنت الشوكة في حلق التنين أرهبت الدبابات العزل بالسكين أطفالك يدم يدم يدم شلالات الدم وبيوت هدم. Ma da un articolo di Robert Inlakesh su Palestine Chronicle, riportiamo l'articolo "Combattere la guerra in Israele perché l'AMP sta attaccando Jenin". L'autorità nazionale palestinese dovrebbe essere l'organizzazione precorritrice di un governo palestinese del futuro Stato di Palestina, ma si è molto trasformata in una forza di intermediazione corrotta che lavora per gli interessi israeliani, cosicché le forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese PASF, PASF, conducono operazioni repressive contro i combattenti della resistenza nel campo profughi di Jenin, con mezzi blindati, irruzioni, arresti ed uccisioni. Israele continua a confiscare le terre della Cisgiordania, incoraggiando il terrorismo dei coloni israeliani, preparando così, nello stesso tempo, la strada alla sua annessione formale. L'autorità nazionale palestinese reprime con le armi i combattenti palestinesi anti-occupazione. Durante i disordini avvenuti nel campo di Jenin, invaso da veicoli blindati, le forze di sicurezza della NP hanno ucciso il ragazzo palestinese Rehi Shalabi e l'alto comandante delle brigate Jenin, Jazi Iraizeh. Tutto ciò per il jihad islamico palestinese può significare che, fra virgolette, il bersaglio dei gruppi di resistenza da parte delle autorità a Jenin si allinea completamente con l'aggressione e la criminalità dell'occupazione israeliana, chiusa virgolette. Secondo l'Ufficio Umanitario delle Nazioni Unite, l'autorità nazionale palestinese si è impadronita di parte di un ospedale a Jenin, aprendo il fuoco sui palestinesi all'interno della struttura, arrestando 8 fra uomini e adolescenti. L'AN non è nuova, purtroppo, a questa forma di repressione, compresa la tortura, esecuzioni sul campo, e tutto allo scopo di corrispondere ai desideri di sicurezza di Israele. In realtà, questo tipo di repressione non è solo ambivalente, ma risponde alla missione delle forze di sicurezza della NP al fine di gestire sia la sicurezza israeliana che la polizia interna nelle principali città palestinesi. Secondo gli accordi di Oslo, fra il 1993 e il 2015, la NP ha il controllo dell'area A della Cisgiordania, ma nella realtà l'esercito israeliano invade qualsiasi area scelta, compresa la stessa area A, sotto la presidenza di Mahmoud Abbas. Abu Mazen, eletto nel 2005, le forze di sicurezza hanno assicurato il coordinamento della sicurezza con l'esercito di occupazione israeliano e, malgrado gli annunci di sospensione di questo coordinamento, nel frattempo hanno torturato a morte il critico Nizar Banad nel giugno 2021, e nel settembre dello scorso anno le brigate Jenin si sono ufficialmente costituite come gruppo di resistenza, innestando una corrente rivoluzionaria diffusa, oltre che nella zona di Jenin, anche nel Tulkarem, Tubase e Nablus. Nel 2021 l'esercito israeliano ha cominciato ad utilizzare droni, elicotteri, attacchi aerei, trappole esplosive e ad effettuare detenzioni ed esecuzioni sul campo. A gennaio il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha presentato all'autorità palestinese un piano per la creazione di una unità PASF per reprimere i nuovi gruppi di resistenza emergenti, ed il coordinatore della sicurezza USA, Michael Fencel, ha dato il nome a tale piano, a seguito del quale ci sono stati 2 incontri ad Aqaba e a Sharm el-Sheikh per riunire le controparti israeliana, giordana, egiziana e americana, che ha avuto l'effetto di reprimere i gruppi di resistenza da parte della stessa autorità palestinese. A seguito del genocidio a Gaza, ottobre 2023, l'autorità nazionale palestinese ha arrestato, ucciso, torturato manifestanti e combattenti e critici della resistenza. In questo momento l'autorità palestinese cerca di ottenere credibilità di fronte all'amministrazione entrante di Trump, che in precedenza l'aveva considerata inutile, e nello stesso tempo cerca di normalizzare il prossimo accordo con l'Arabia Saudita e Israele. Ricordiamo che l'autorità palestinese è impopolare in Cisgiordania e desiderano che Abu Abbas si dimetta per la diffusa immagine di corruzione. Sotto tiro da parte di Israele e degli Stati Uniti, Francesca Albanese per il suo intervento a New York. La rappresentante permanente americana all'ONU, Linda Thomas Greenfield, ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese perché antisemita e inadatta al ruolo. E in Italia l'associazione Filo Israeliana 7 ottobre ne ha chiesto la destituzione. L'impunità garantita a Israele gli ha permesso di diventare un violatore seriale del diritto internazionale, ha detto l'esperta italiana, facendo rapporto alla terza commissione dell'Assemblea Generale insieme ad altri colleghi che fanno capo al Consiglio per i diritti umani di Ginevra. La violenza genocida descritta nel mio primo rapporto dopo il 7 ottobre, dice Francesca Albanese, si è metastizzata in altre parti dei territori palestinesi. E ha aggiunto, criticando l'indifferenza e la capacità di distogliere lo sguardo di molti stati a dispetto dell'impegno che non succeda mai più, impegno preso dopo la Seconda Guerra Mondiale e in particolare in Europa dopo l'Olocausto. Nel suo rapporto in terza commissione, Albanese aveva raccomandato la sospensione di Israele dall'ONU, riferendosi al capitolo 6 della Carta dell'ONU, che autorizza l'Assemblea Generale, su raccomandazione del Consiglio di sicurezza, a prendere questa misura quando uno Stato membro ne viola persistentemente le prescrizioni. Ascoltiamo Francesca Albanese nella traduzione di Sara. Vostre eccellenze, distinti delegati, signore e signori, in un anno in cui sono diventata una riluttante cronista del genocidio in corso, mi sento in dovere di iniziare rendendo omaggio alle vittime e ai sopravvissuti di tutti i genocidi passati e presenti, compresi i nativi americani, come il popolo Lenape, che è il custode originario della terra su cui questa istituzione sorge. Come ci ricorda uno dei sopravvissuti all'Olocausto, l'italiano Primo Levi, è l'amnesia del passato e la cancellazione delle sue vittime che permette alla storia di ripetersi. A marzo, 2 mesi dopo che la Corte internazionale di giustizia aveva riconosciuto il plausibile rischio di genocidio a Gaza, ho avvisato il Consiglio dei diritti umani che c'erano motivi ragionevoli per credere che il genocidio stesse già avvenendo. Nei mesi successivi, la Corte internazionale di giustizia ha indicato 2 volte nuove misure provvisorie contro Israele. Il Consiglio di sicurezza ha poi ordinato un cessate il fuoco. E poi la stessa Corte ha dichiarato che la presenza di Israele in Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza è illegale e che deve esservi posta fine in modo incondizionato e totale il più rapidamente possibile, come questa Assemblea Generale richiede che avvenga entro il 17 settembre 2025. Eppure l'assalto a Gaza è andato avanti, anzi si è intensificato ed è stato esteso oltre Gaza. Permettetemi di condividere solo alcuni degli sviluppi raccapriccianti prima di situare questo genocidio all'interno del suo contesto. A Gaza i bombardamenti incessanti di Israele, il fuoco dei cecchini e dell'artiglieria hanno continuato a non risparmiare nessuno. Giornalisti, studenti, accademici, medici, infermieri, persone con disabilità, chi cercava cibo e sicurezza. Operatori umanitari, fra cui membri delle Nazioni Unite, anche nelle cosiddette zone umanitarie. Le cifre indicano che l'assalto israeliano a Gaza ha ucciso, ferito, mutilato o seppellito sotto le macerie almeno 155.000 palestinesi. Intere famiglie sono state sterminate, donne incinte e oltre 700 neonati tra i 17.000 bambini massacrati. Gaza è ora un deserto di macerie, rifiuti e resti umani, dove i sopravvissuti si aggrappano alla vita in mezzo a privazioni diffuse e malattie. I palestinesi intrappolati lì dentro hanno sperimentato un livello di violenza mai visto in questo secolo. Prigionieri sadicamente torturati e stuprati, corpi sfigurati e profanati, accatastati e lasciati a decomporsi per strada, abitazioni distrutte. Vita intima totalmente violata, mesi di rimozione forzata in un territorio reso invivibile, senza alcun posto dove fuggire, con scarsissimo accesso ai beni di prima necessità, senza assolutamente niente verso cui tornare. E tutto questo corrisponde a un piano. Le fosse comuni da cui sono emersi arti scomposti, consegni di flebo ancora attaccati o legati con fascette rivelano e ci indicano storie di orrore, i dettagli persi per sempre nell'oblio. Eppure Israele continua a intensificare la sua aggressione e soltanto nelle ultime 3 settimane ha orchestrato un feroce attacco nel nord di Gaza, assediando, depopolando, bombardando, bruciando vivi, sequestrando e giustiziando migliaia di civili. In modo preoccupante, schemi simili si sono diffusi in Cisgiordania. Da ottobre 2023 le forze israeliane hanno compiuto più di 5.500 incursioni e scortato molti degli oltre 1.000 attacchi violenti dei coloni, uccidendo 735 palestinesi, ovvero 10 volte il tasso annuo di mortalità negli ultimi 20 anni. Tra le persone uccise, 167 erano bambini, cioè un quinto di tutti i bambini giustiziati negli ultimi 24 anni in Cisgiordania. Israele ha ripetutamente assediato città e campi profughi e ha demolito, come a Gaza, strade, acquedotti, reti fognarie e reti elettriche. Tutto ciò mentre rimuoveva 3.200 palestinesi dalle loro case, depopolava 18 comunità e colpiva 180.000 palestinesi con la più grande espropriazione di terra degli ultimi 30 anni. Israele ha arrestato migliaia di palestinesi, tra cui accademici, studenti, avvocati, giornalisti, difensori dei diritti umani, medici e bambini, arbitrariamente designati come terroristi e trattati come minacce alla sicurezza nazionale. Sono stati sottoposti ad abusi sistematici, degrado, torture e persino stupri. La distruzione inflitta negli ultimi 387 giorni sui palestinesi in quanto popolo, il dolore e la perdita sofferti da ogni palestinese, compresi coloro che sono costretti a guardare in esilio mentre membri della loro famiglia e della loro comunità vengono massacrati, biasimati e denigrati, riecheggeranno per le generazioni a venire. Questo è un oltraggio all'umanità e verso tutto ciò che l'ordine basato sul diritto internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale rappresenta. Tale sviluppo conferma la mia analisi secondo cui Israele sta effettivamente portando avanti una campagna genocida contro il popolo palestinese. Il crimine di genocidio consiste in atti accompagnati da un intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Quando la distruzione del gruppo viene interpretata in termini fisici o biologici, la giurisprudenza, dal processo Eichmann a Ruanda all'ex Jugoslavia, fa risalire l'intento da atti che colpiscono le fondamenta stesse del gruppo, atti come l'imposizione di condizioni di vita che conducono a una morte lenta e alla distruzione dello spirito e della volontà di vivere. Quando si valuta l'intento, e in particolare l'intento di uno Stato, di distruggere un gruppo, dobbiamo ricordare che il genocidio è un processo, non un atto singolo, e che comprende una pluralità di atti e di attori coinvolti. Quindi l'elemento cardine è il singolo filo conduttore relativo all'intento che attraversa la condotta collettiva. E in linea con la giurisprudenza, il mio rapporto analizza l'intento di Israele in quanto Stato di distruggere il popolo palestinese e lo fa utilizzando un approccio globale e una lente triplice, cioè considerando la totalità della condotta israeliana contro la totalità del popolo palestinese in quanto tale, su tutto il territorio palestinese che Israele occupa illegalmente dal 1967. La totalità degli atti comprende tutti i crimini, dall'incitamento genocida da parte dei leader israeliani alla distruzione di Gaza nel suo complesso, fra cui quegli atti apparentemente diretti a liberare gli ostaggi e a sradicare Hamas, a ogni singolo atto eseguito con l'obiettivo di determinare l'attuale distruzione. La totalità della terra comprende la Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza, la terra che Israele considera propria per disegno divino. Poiché il diritto fondamentale dei palestinesi è integralmente connesso a quella terra, la totalità del popolo palestinese in quanto tale viene condannata a costituire un fardello indesiderato, il nemico designato per la pulizia etnica, l'eliminazione, la distruzione. L'identità palestinese rappresenta una minaccia sia esistenziale che legale per Israele. Questo approccio globale rivela un quadro di intento genocidiario, in cui la terra è centrale per comprendere l'intento che guida lo Stato. Esiste un conflitto intrinseco tra Israele, che cerca di acquisire sempre più terra, e i palestinesi, per i quali la terra è alla base dell'esistenza. Per i palestinesi, la terra non è soltanto il luogo dove vivono, ma come per ogni popolo indigeno, la terra è ciò che sono. Ed è proprio questo fatto a indirizzare lo Stato coloniale verso la necessità di eliminare gli indigeni. Questo è il quadro del contesto coloniale di insediamento che ha guidato la condotta di Israele nel territorio palestinese occupato dal 1967. La continua rimozione forzata, l'espropriazione, la dominazione, l'oppressione hanno comportato una miriade di violazioni di qualsiasi diritto umano o di qualsiasi norma applicabile in contesti di conflitto armato. E gli eventi brutali del 7 ottobre hanno fornito l'impulso per avanzare verso l'obiettivo del grande Israele. E piani sono stati disegnati approfittando del caos della guerra. Il trauma profondo sofferto dagli israeliani quel giorno e la rabbia che hanno provato sono del tutto comprensibili. Eppure, intensificandosi e costruendosi su un'ostilità profondamente radicata verso i palestinesi, la chiamata volta all'annientamento è cresciuta in un modo che rievoca altri genocidi. L'atmosfera vendicativa che ne è derivata ha preparato i soldati a trasformarsi in esecutori disposti a mettere in pratica la brutale distruzione richiesta, e gli ultimi 12 mesi hanno confermato questa dimensione collettiva relativa al crimine di genocidio. le istituzioni dello Stato di Israele, un sistema che si autoproclama basato sullo Stato di diritto, l'esecutivo, il Parlamento, i tribunali, non sono riusciti ad arginare e correggere l'abuso di potere. Al contrario, tutti insieme hanno contribuito alla prosecuzione dell'attuale catastrofe. E mentre speriamo che i tribunali internazionali possano deliberare sulla responsabilità dei singoli, la responsabilità dello Stato deve essere compresa e valutata in modo indipendente e non può attendere. Tutto ciò avrebbe dovuto già essere fermato lo scorso ottobre dal Consiglio di Sicurezza, dopo 3 avvisi legali emessi da decine di esperti indipendenti delle Nazioni Unite, o quando la Corte Internazionale di Giustizia ha approvato la prima serie di misure provvisorie, o quando ho presentato il mio primo rapporto, o prima che Rafah venisse invasa, o prima dell'invasione del Libano. Invece, il silenzio, o peggio, la giustificazione utilizzata da un numero ridotto ma molto influente di stati in questa stanza mi lascia totalmente senza parole. Eppure, laddove vi sono vite da salvare, c'è ancora l'urgenza di intervenire per prevenire nuove atrocità che lasceranno ulteriormente il segno nella storia dell'umanità. Fate in modo che quel momento sia adesso. E questo è tutto da parte mia, Vostre Eccellenze. اسرع للجبهه ابطالا تاتي للموت لا ترجع واصنع للثوره امجادا انوارا في ليلك تسطع اسرع للجبهه ابطالا تاتي للموت لا ترجع واصنع للثوره امجادا انوارا في ليلك تسطع الشهداء لنا يدفع واقرع اجراسك في صمت وانشد للثوره ما ينفع اسرع فالارض تنادينا ودم الشهداء لنا يدفع واقرع اجراسك في صمت وانشد للثوره ما ينفع اسرع للجبهه ابطالا تاتي للموت لا ترجع واصنع للثوره امجادا انوارا في ليلك تسطع E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora alla seconda parte della trasmissione. La casa brucia. Al circolo Arci di Via Maccari parte la mozione contro la guerra. Il 17 dicembre scorso all'Isolotto Claudio Grassi introduce e presenta la mozione proposta da Il coraggio della pace disarma. Relatori Elena Basile, Raniero Lavalle e Domenico Gallo, che entra nel merito della mozione, mentre Dimitri Palagi esemplifica il percorso che può essere avviato dentro i consigli comunali a partire da questa iniziativa, che proprio a Firenze aveva mosso i suoi primi passi nel settembre del 2023 con Disarma. Attraverso la mozione si chiede con forza lo stop all'invio di armi in Ucraina e che siano prese misure precise contro il genocidio del popolo palestinese. Oggi il governo Meloni, con Crosetto, si propone di passare dall'1 al 2% di spese militari al 2,5% per l'Unione Europea. Nel corso della serata sono stati presentati 2 libri. Uno di Elena Basile, Frammenti di Bruxelles, di Sandro Teti Editore. L'altro di Raniero Lavalle, Dio non salvi il re, di Edimenia Editrice. Presente anche il libro di Domenico Gallo, Guerre, dall'edizione Delta 3. Troverete il link all'articolo completo di Emanuela Bavazzano su Pressenza nel blog di questa trasmissione di oggi. Prima dell'inizio della serata, Domenico Gallo e Dimitri Palagi sono intervenuti ai nostri microfoni. Ascoltiamo l'intervista a Domenico Gallo. Sono qui con il magistrato Domenico Gallo, siamo all'Arci di via Maccari e in attesa di una conferenza riguardo alla pubblicazione di un paio di libri. Se lei ci vuol parlare anche poi del suo, molto volentieri. No, le domande che le volevo fare in particolare avevano, diciamo, un taglio più giuridico. Il rapporto di Francesca Albanese in una conferenza stampa alle Nazioni Unite ha dichiarato che la violenza che Israele ha scatenato contro i palestinesi dopo il 7 ottobre è parte di un lungo periodo intenzionale, sistematico, organizzato per lo spostamento forzato e la sostituzione dei palestinesi, quindi una volontà genocida. E volevo sapere, questo sarebbe sufficiente, come mi sembra che la Francesca Albanese abbia ventilato, per l'espulsione di Israele dalle Nazioni Unite, dal punto di vista giuridico? La proposta di espulsione delle Nazioni Unite fu fatta per il Sudafrica con riferimento all'apartheid che le Nazioni Unite condannarono fieramente, però poi questa proposta non fu accolta. Comunque il problema è che effettivamente la gravità di quello che sta succedendo, il fatto che Israele calpesti tutte le leggi internazionali e se ne infischi degli ordini che ha ricevuto dalla Corte Internazionale di Giustizia per prevenire il genocidio, e mette questo governo in una condizione di essere considerato fuori dalla comunità internazionale, a prescindere poi se ci sarà espulsione o meno. In ogni caso perde legittimità nella vita della comunità internazionale. Ecco, questo già sarebbe un auspicio se venisse recepito però anche da tutti gli altri componenti della comunità internazionale, dal punto di vista, voglio dire, proprio degli Stati. La seconda domanda le volevo fare è sull'incriminazione della Corte Penale Internazionale a Netanyahu e il ministro della difesa, ex ministro della difesa Gallant. Cioè, come si può, dal suo punto di vista, cioè, qual è l'applicazione reale che gli Stati possono, cioè, cosa possono fare per vedere veramente queste persone dietro le sbarre, in poche parole? Anche perché le volevo citare poi il caso francese, dove appunto Macron si è appellato a una ipotetica, cioè fantomatica direi, immunità parlamentare. Forse non ha letto bene l'articolo. No. Il problema dello Statuto di Roma. Lo Statuto di Roma esclude ogni forma di immunità anche per i capi di Stato. Esatto. Comunque il problema non è di quello là di vedere in prigione Netanyahu e Gallant, ma che attraverso questa procedura viene certificato che questo governo, questo esercito sta praticando dei gravissimi crimini che colpiscono la comunità internazionale in quanto tale, perché i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità sono interesse della comunità internazionale reprimerli e impedire che accadano. Quindi questo è importante perché è una certificazione giudiziaria, non sono soltanto articoli di giornale o polemiche politiche. Ci troviamo di fronte a qualcosa di molto più solido, di granitico per quanto riguarda la responsabilità, anche se bisogna dire che questa Corte Penale Internazionale è andata con i piedi di piombo, insomma, ma alla fine ci sono arrivati, avendo subito minacce, intimidazioni che fanno veramente, dubitare della possibile applicazione, anche sono un segnale della prepotenza internazionale dei sostenitori, degli stati complici e sostenitori di Israele. Grazie. Thank you. Ascoltiamo l'intervista a Dimitri Palagi. Buonasera, sono Gianna di Buongiorno Palestina e sono qui con Dimitri Palagi del Consiglio Comunale, rappresentante del partito Sinistra Progetto Comune. Ecco, e intanto vorrei sapere che cosa ne pensa lui della situazione, diciamo così, che si sta avvenendo, che si sta creando purtroppo sempre più ampia di guerra in Medio Oriente. E poi voglio farle anche una domanda più specifica, se mi vuoi rispondere alla prima, altrimenti ti faccio sì, subito. Sì, volentieri. No, partiamo dal contesto internazionale, sì. E poi magari su quello che potrebbe fare il Comune di Firenze, esatto, non esatto. Fa. E Sinistra Progetto Comune è una coalizione con più partiti dentro e persone senza tessere di partito che sono accomunate da un'idea che tiene insieme la dimensione internazionale, quella nazionale e quella locale. Per partire da quella internazionale, purtroppo c'è una impunità degli Stati Uniti e di Israele che vediamo dilagare ovunque. In questo momento c'è una difficile situazione per quanto riguarda la resistenza curda, la rivoluzione che c'è stata in Rojava, perché vediamo l'inaffidabilità anche di alcune alleanze, perché di fatto Israele e gli Stati Uniti agiscono nell'impunità rispetto al diritto internazionale, quindi fanno valere gli equilibri di forza. Noi vediamo adesso l'occupazione di una parte importante della Siria senza fondamentalmente nessuna indignazione, penso, dell'Unione Europea, perché è evidente che si era partiti da un'idea che era quella di vendicare il terrorismo del 7 ottobre, con una consapevolezza sempre maggiore di che cosa ha significato il 7 ottobre per le popolazioni palestinesi e un'incapacità dell'opinione pubblica occidentale, anche di quella democratica e progressista, di capire quello che era il peso che poteva rappresentare. Io non entro nel merito, perché diciamo non è il nostro ruolo, di quelle che possono essere state le conseguenze, perché io credo che ad esempio poche persone si immaginassero le conseguenze in Siria. La geopolitica spesso ha un difetto, che è quella di trasformare la vita delle persone in una sorta di partita a scacchi o di risico, e invece la drammaticità della guerra dovrebbe portarci a condannarla sempre, e questo darebbe ancora più forza al denunciare quella che è la situazione portata avanti dall'esercito di Israele, dal governo di Israele, con la complicità di fatto degli Stati Uniti, sia dell'amministrazione Biden sia di quella di Trump. Quindi pensare che ci sia una particolare differenza tra un'amministrazione democratica o un'amministrazione repubblicana in politica internazionale da parte degli Stati Uniti è sbagliata. Quindi quello che stiamo vedendo ci conferma la necessità di condannare senza alcuna ambiguità quella che è l'azione di un governo, che è quello di Tel Aviv, che si basa sempre più su posizioni razziste, di discriminazione, oltre di violazione del diritto internazionale, la solidarietà verso il popolo palestinese, e dall'altra parte quella che è l'azione degli Stati Uniti, che anche in sede ONU stanno dimostrando quello che è il loro ruolo negativo. Per non parlare, perché stasera parleremo anche del conflitto in Ucraina, di quella che è la situazione della NATO anacronistica e da superare. Ecco, la seconda domanda era invece una cosa più locale. In una recente conferenza stampa, Ugo Caffaz, che conoscerai dalla comunità ebraica fiorentina, ha evocato il sindaco Lapira e ha ricordato Firenze come città di promotrice di pace, e ha anche proposto un convegno. Non so, ne sapete qualcosa? Vediamo come andrà nella mozione che abbiamo approvato del riconoscimento di Stato di Palestina. C'è anche l'impegno di fare un tavolo per la pace. Sicuramente è stata delegata da parte della politica locale il dialogo tra comunità diverse a un dialogo religioso. Io penso che ci siano persone laiche e non religiose all'interno della comunità ebraica, come all'interno della comunità araba, così come all'interno dei movimenti pacifisti e di solidarietà internazionale, senza negare l'importanza delle comunità religiose. Ma oggi quello che manca è un dialogo tra le comunità politiche, tra le comunità di cittadinanza. Quindi se si terranno delle iniziative, noi ovviamente parteciperemo volentieri. Noi abbiamo partecipato a un ciclo che pochi mesi fa è stato fatto all'interno di Palazzo Vecchio, dove un'iniziativa che era fortemente legata alla denuncia di quello che fa Israele, dove partecipava Ilan Pappe o Ilan Pappé, che era un'iniziativa molto importante, che purtroppo è stata attaccata da un pezzo di città quando si inseriva all'interno di un ciclo di iniziative che portava più punti di vista. Quindi oggi noi abbiamo anche sul territorio fiorentino una carenza di capacità di dialogo. Su questo bisogna lavorare. A me colpisce perché in questi anni tutte le nostre posizioni espresse a favore della pace e di solidarietà tra i popoli da parte di alcune realtà, a partire dal console onorario di Israele, sono state tacciate di antisemitismo. Questo è un modo per delegittimare il dibattito pubblico cittadino e non ci fa bene. Quindi qualsiasi tavolo, qualsiasi iniziativa troverà in noi ascolto e interesse senza nessuna ambiguità su quelle che sono le posizioni che abbiamo sempre espresso. Ci vorrebbe la capacità di ascolto anche da parte di chi talvolta non partecipa alle iniziative e le condanna. Grazie. Niente, grazie a voi. Ciao. Grazie. كلامي في الغرام احلام الاغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفدي عيوني وعمري كله مش قليل كلامي في الغرام احلام الاغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفدي عيوني وعمري كله مش قليل Trasmettiamo ora il comunicato stampa di Dimitri Palagi sulla lettera a cui la sindaca Funaro non ha ancora risposto. Comunicato stampa di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi, lettera per la pace e di Firenze per la Palestina senza risposta. Il 18 dicembre 2024 Dimitri Palagi scrive: sindaca e giunta dovrebbero tenere conto del consiglio comunale e della cittadinanza. Il 4 novembre 2024 un gruppo di cittadine e cittadini ha consegnato alla sindaca una lettera dal titolo «Cara sindaca, abbiamo un sogno», eccetera eccetera. È firmata da figure di riferimento importanti in città, note per l'impegno per la pace portato avanti negli anni in modo coerente e disinteressato. L'abbiamo riproposta pochi giorni dopo come interrogazione a cui sarebbe dovuto arrivare risposta entro il 18 novembre 2024. C'erano proposte concrete a cui sarebbe stato importante dare seguito, soprattutto visto l'avvicinarsi del Natale, momento in cui, oltre alla corsa ai regali, ci sono comunità che si interrogano sul senso di umanità. Qualche settimana dopo abbiamo voluto raccogliere le domande rivolte alla sindaca da Firenze per la Palestina con una nuova interrogazione a cui si sarebbe dovuto rispondere entro il 13 dicembre 2024. Oggi non è arrivata nessuna risposta. Se si fosse scelto di farlo pubblicamente, evitando di passare dal Consiglio Comunale, ci andrebbe bene lo stesso. Così è mancanza di riguardo verso il territorio e le istituzioni. Speriamo possa arrivare presto una smentita a questa nostra posizione. Sollecitiamo la sindaca e la giunta a rispondere. Alla sindaca Sara Funaro, che il 19 dicembre nel Salone dei 500 per i consueti auguri per le festività natalizie ha ricordato le parole di Nelson Mandela: «La pace è un sogno, ma per costruirla dobbiamo essere capaci di sognare», noi come Associazioni per la Pace e Firenze per la Palestina le ricordiamo che il nostro sogno è lo stesso. Lo stesso di Nelson Mandela quando disse: «Sappiamo troppo bene che la nostra libertà è incompleta senza la libertà dei palestinesi». Per la consueta rassegna musicale, nel corso di questa trasmissione avete ascoltato Musiche per la resistenza palestinese. E con queste ultime notizie ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo anno, sempre il mercoledì, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah. la la.